Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margheriti Ursenar. Costruire significa collaborare con la terra, imprimere il segno dell'uomo su un paesaggio che ne resterà modificato per sempre. Contribuire inoltre a quella lenta trasformazione che è la vita stessa delle città. Quanta cura per escogitare la collocazione esatta ad un ponte ed una fontana, per dare a una strada di montagna la curva più economica che è al tempo stesso la più pura. Elevare fortificazioni in fin dei conti equivale a costruire dighe, equivale a trovare la linea sulla quale si può difendere una sponda o un impero. Il punto dove sarà contenuto, arrestato, infranto l'assalto delle onde o quello dei barbari. Costruire un porto significa fecondare la bellezza d'un golfo. Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Ho ricostruito molto, e ricostruire significa collaborare con il tempo nel suo aspetto di passato, coglierne lo spirito o modificarlo, protenderlo quasi verso un più lungo avvenire. Significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti. La nostra vita è breve. Parliamo continuamente dei secoli che han preceduto il nostro o di quelli che lo seguiranno, come se ci fossero totalmente estranei. Li sfioravo, tuttavia, nei miei giochi di pietra. Le mura che faccio puntellare sono ancora calde del contatto di corpi scomparsi. Mani che non esistono ancora carezzeranno i fusti di queste colonne. Più ho meditato sulla mia morte, e specialmente su quella d'un altro, più ho cercato di aggiungere alle nostre esistenze queste appendici quasi indistruttibili. A Roma ho adottato di preferenza il mattone eterno, che assai lentamente torna alla terra d'onde deriva, e il cui cedimento, lo sbriciolamento impercettibile, avviene in tal guisa che l'edificio resta una mole, anche quando ha cessato d'essere una fortezza, un circo, una tomba. In Grecia e in Asia ho adoperato il marmo natio, la bella sostanza che, una volta tagliata, resta fedele alla misura umana, tanto che la pianta del tempio intero resta contenuta in ogni frammento di tamburo spezzato. L'architettura è ricca di possibilità più varie di quel che non farebbero supporre i quattro ordini di Vitruvio. I blocchi, come i toni musicali, sono suscettibili di infinite variazioni. Per il Pantheon sono risalito ai monumenti dell'antica Etruria, degli Indovini e degli Aruspici. Il santuario di Venere, al contrario, innalza al sole forme ioniche, una profusione di colonne bianche o rosate attorno alla dea di carne da cui discende la progenie di Cesare. L'Olimpieion di Atene non poteva non rappresentare il contrappeso esatto del Partenone, adagiato nella pianura come l'altro si erge sulla collina. Immenso dove l'altro è perfetto. L'ardore ai piedi della calma, lo splendore ai piedi della bellezza. Le cappelle di Antino, i suoi templi, stanze magiche, monumenti d'un misterioso passaggio tra la vita e la morte, oratori d'un dolore e d'una felicità indicibili, erano il luogo della preghiera e della riapparizione. Lì mi abbandonai al mio lutto. La mia tomba in riva al Tevere riproduce, su scala gigantesca, gli antichi sepolcri della via Appia, ma le sue stesse proporzioni la trasformano, fanno pensare a Ctesifone, a Babilonia, alle terrazze e alle torri attraverso le quali l'uomo si avvicina agli astri. La villa era la tomba dei viaggi, l'ultimo accampamento del nomade, l'equivalente in marmo delle tende da campo e dei padiglioni dei principi asiatici. Quasi tutto ciò che il nostro gusto consente di tentare già lo fu nel mondo delle forme. Io volli provare quello del colore, il diaspro, verde come i fondi marini, il porfido poroso come le carni, il basalto, l'ossidiana opaca. Il rosso denso dei tendaggi si ornava di ricami sempre più raffinati. I mosaici delle mura e degli impiantiti non erano mai abbastanza dorati, bianchi o cupi a sufficienza. Ogni pietra rappresentava il singolare conglomerato d'una volontà, d'una memoria, a volte d'una sfida. Ogni edificio sorgeva sulla pianta d'un sogno. Siamo ingombri di statue, rimpinzati di capolavori della pittura e della scultura, ma questa abbondanza è illusoria. Non facciamo che riprodurre all'infinito poche decine di capolavori che non saremmo più in grado di inventare. Io stesso ho fatto copiare per la mia villa l'ermafrodito e il centauro, la niobide e la venere, ansioso di vivere il più possibile tra queste melodie della forma. La nostra arte è perfetta, cioè a dire raffinata, ma la sua perfezione è suscettibile di modulazioni varie quanto quelle d'una voce pura. Dipende da noi questo gioco abile, che consiste nell'accostarsi e nell'allontanarsi perpetuamente da soluzioni trovate una volta per tutte, di spingerci sino al fondo del rigorismo o della ridondanza, e racchiudere un numero sconfinato di creazioni entro la stessa sfera. I mille termini di paragone alle nostre spalle tornano tutti a nostro vantaggio, ci consentono di continuare intelligentemente Scopas o contraddire voluttuosamente Prassitele. I miei contatti con le arti barbare mi hanno indotto a ritenere che ogni razza si limita a determinati soggetti, a determinate esperienze tra tutte quelle possibili. Ogni epoca, per di più, opera una cernita tra le possibilità offerte a ogni razza. In Egitto ho visto dei re colossali. Al polso dei prigionieri sarmati ho trovato bracciali che ripetono all'infinito lo stesso cavallo al galoppo o gli stessi serpenti che si divorano l'un l'altro. Ma la nostra arte, quella dei greci, voglio dire, ha preferito attenersi all'uomo. Noi soli abbiamo saputo mostrare in un corpo immobile la forza e l'agilità che esso cela. Noi soli abbiamo fatto d'una fronte levigata l'equivalente d'un pensiero. Io sono come i nostri scultori. L'umano mi appaga. Vi trovo tutto. Persino l'eternità. Non gettavo più d'uno sguardo alla mia propria immagine. Il marmo candido snatura il mio volto abbronzato dagli occhi ben aperti, la bocca sottile e carnosa controllata sino a tremare, ma il volto di un altro m'ha sempre interessato molto di più. Non appena egli cominciò a contare nella mia vita, L'arte ha smesso d'essere un lusso. È diventata una risorsa, una forma di soccorso. Ho imposto al mondo questa immagine. Oggi esistono più copie dei ritratti di quel fanciullo che non di qualsiasi uomo illustre, di qualsiasi regina. Sulle prime mi stava a cuore far registrare dalle statue la bellezza successiva ad una forma nel suo mutare. In seguito l'arte divenne una specie di magia, capace di evocare un volto perduto. Vi sono statue e ritratti del giovinetto da vivo, quelle che riflettono il paesaggio immenso e mutevole che va dai 15 anni ai 20 anni, il profilo compunto del bambino buono, e quella statua in cui uno scultore di Corinto ha osato cogliere l'abbandono del fanciullo che, il ventre in avanti e le spalle cascanti, la mano al fianco, sembra sostare all'angolo d'una strada a sorvegliare una partita ai dadi. E c'è quel marmo di Papias nel quale è tracciato un corpo assai più che nudo, inerme, d'una freschezza fragile di narciso. E Aristea ha scolpito sotto i miei ordini in una pietra lievemente rugosa quella piccola testa imperiosa e fiera. Poi vi sono i ritratti dopo la morte. Ivi, la morte è passata. Sono grandi volti dalle labbra sapienti, dense di segreti che non sono più i miei, poiché non sono più quelli della vita. C'è quel basso rilievo nel quale Antoniano Cario ha dotato d'una grazia che non è di questa terra il vendemmiatore vestito di seta grezza, il muso del cane che gli si accosta amichevolmente alla gamba nuda, e quella maschera quasi tragica d'uno scultore di Cirene, nella quale piacere e dolore si fondono e si combattono a vicenda sullo stesso volto, come due onde sulla stessa roccia, e quelle statuette d'argilla da un soldo che sono servite alla propaganda imperiale. Tellus stabilita, il genio della terra pacificata, con l'aspetto d'un giovinetto disteso che regge frutta e fiori. Thank you. In Germania mi trattennero quasi un anno le fortificazioni e gli accampamenti da costruire e da restaurare, le strade da aprire o da riparare, nuovi bastioni eretti per un percorso di 70 leghe lungo il Reno rafforzarono le nostre frontiere. Quel paese di scialbi vigneti e di corsi d'acqua spumeggianti non mi offriva nulla di imprevisto. Vi ritrovavo le orme del giovane tribuno che recò a Traiano la notizia del suo avvento al trono. Vi ritrovavo pure, oltre il nostro fortilizio estremo, fatto di tronchetti d'abete, lo stesso orizzonte monotono e cupo, lo stesso mondo che ci è precluso dopo il cuneo imprudente che vi insinuarono le legioni di Augusto, l'oceano di alberi, l'immensa riserva d'uomini bianchi e biondi. Una volta compiuta quell'opera di riorganizzazione, ridiscesi sino alla foce del Reno, lungo le pianure belghe e batave. Dune desolate componevano quel paesaggio nordico tagliato da erbe sibilanti. Le case del porto di Novio Magus, innalzate su palafitte, si affiancavano alle navi ormeggiate quasi alla loro soglia. Sul tetto si appollaiavano gli uccelli marini. Amavo la malinconia di quei luoghi, che apparivano detestabili ai miei aiutanti di campo. Quel cielo imbronciato, quei fiumi fangosi che si scavano il letto in una terra informe, senza una luce, senza un dio che ne abbia modellato il limo. Una barca dal fondo quasi piatto ci trasportò nell'isola di Britannia. Più volte il vento ci respinse verso la costa che avevamo lasciata e quella traversata contrastata mi concesse qualche straordinaria ora vuota. Nubi gigantesche sorgevano dal mare tempestoso, intorbidito dalle sabbie incessantemente smosse nel suo fondo. Come un tempo, presso i Dacei Sarmati, avevo contemplato religiosamente la terra, qui scorgevo per la prima volta un Nettuno più caotico del nostro, un infinito mondo liquido. Avevo letto in Plutarco una leggenda di naviganti riguardante un'isola situata in quei mari prossimi al mare tenebroso. Da secoli gli dei vittoriosi dell'Olimpo vi avrebbero relegato i titani vinti. Quei grandi prigionieri delle rocce e delle onde, eternamente flagellati dall'oceano insonne, votati anch'essi a un'insonnia perenne, ma intenti senza posa a sognare, continuerebbero a opporre all'ordine olimpico la loro violenza, la loro angoscia, il loro desiderio perpetuamente frustrato. Ritrovavo in quel mito ambientato ai confini del mondo le teorie dei filosofi di cui m'ero nutrito. Ogni uomo, nel corso della sua breve esistenza, deve scegliere eternamente tra la speranza insonne e la saggia rinuncia a ogni speranza, tra i piaceri dell'anarchia e quelli dell'ordine, tra il titano e l'olimpico, scegliere tra essi o riuscire a comporre tra essi l'armonia. Le riforme civili poste in atto in Britannia fanno parte della mia opera amministrativa, della quale t'ho parlato altrove. Quello che importa qui è che io fui il primo tra gli imperatori che si sia insediato pacificamente in quell'isola situata ai confini del mondo conosciuto, dove il solo Claudio s'era azzardato a sostare per qualche giorno in qualità di comandante in capo. Per un inverno intero, Londinium divenne, per mia elezione, quel centro effettivo del mondo che Antiochia era stata durante la guerra partica. Così ogni viaggio spostava il centro di gravità del potere, lo collocava per un periodo di tempo in riva al Reno o lungo le prode del Tamigi, mi permetteva di valutare la convenienza o gli svantaggi d'una simile sede imperiale. Quel soggiorno in Britannia mi fece prendere in considerazione l'ipotesi d'uno stato accentrato in Occidente, d'un mondo atlantico. Intuizioni dello spirito prive di qualsiasi valore pratico, ma cessano d'essere assurde non appena chi le ipotizza si concede un volger d'anni abbastanza esteso per i suoi piani. Solo 3 mesi prima del mio arrivo, la 6ª legione vittoriosa era stata trasferita in territorio britannico. Veniva a sostituirvi la sventurata 9ª legione, che i Caledoni avevano decimato durante i disordini in Britannia, orrendo contraccolpo della nostra spedizione contro i Parti. Per impedire che un disastro simile si replicasse, 2 misure si imponevano: che le nostre truppe venissero rinforzate mediante la creazione di un corpo ausiliario indigeno. A Eboracum, dall'alto di una collina verde, ho visto manovrare per la prima volta quell'armata britannica di formazione recente. Nello stesso tempo feci erigere una muraglia che tagliava l'isola in 2 nel punto più stretto a proteggere le regioni fertili e civilizzate del sud contro gli attacchi delle tribù del nord. Ho ispezionato di persona buona parte dei lavori, iniziatisi simultaneamente lungo un crinale di 80 leghe. Fu per me un'occasione per sperimentare, lungo quello spazio ben limitato che si estende da una costa all'altra, un sistema difensivo che in seguito si potrebbe applicare ovunque. Ma già quell'opera puramente militare secondava la pace, incrementava la prosperità di quella regione della Britannia, si creavano villaggi, si produceva un moto di afflusso verso le nostre frontiere. Gli sterratori della legione erano secondati da squadre indigene nel loro compito. Per molti di quei montanari, ieri ancora indomi, quel muro rappresentava la prima prova irrefutabile della potenza tutelatrice di Roma. Il soldo della paga, la prima moneta romana che passava per le loro mani. Quel baluardo divenne l'emblema della mia rinuncia alla politica di conquista. Ai piedi del bastione più avanzato feci erigere un tempio al dio Termine. Tutto mi piacque in quella terra piovosa. Le frange di bruma sui fianchi delle colline, i laghi votati a ninfe ancor più estrose delle nostre, quella razza malinconica dagli occhi grigi. Avevo per guida un giovane tribuno del corpo ausiliario britannico. Quel dio biondo aveva imparato il latino, balbettava in greco e si ingegnava timidamente a comporre versi d'amore in quella lingua. Una fredda notte d'autunno ne feci il mio interprete presso una sibilla. Sedevamo nella capanna affumicata d'un carbonaio celta, a riscaldarci le gambe ravvolte in grosse pezze di lana ruvida, quando vedemmo strisciare verso di noi una vecchia fradicia di pioggia, scarmigliata dal vento, selvatica e furtiva come un animale della foresta. Si avventò su piccoli pani di avena che si cuocevano al focolare. La mia guida riuscì a blandire quella profetessa ed ella acconsentì a interrogare per me le volute del fumo, le scintille che scoppiettavano improvvise, le fragili architetture degli arbusti in fiamme e della cenere. Vide le città che si edificavano, le folle plaudenti, ma anche città in fiamme, cupe sfilate di vinti che smentivano i miei progetti di pace, e un viso giovane e dolce che prese per un volto di donna e al quale mi rifiutai di credere. Si trattava probabilmente di uno spettro bianco, forse una statua, oggetto più misterioso ancora di un fantasma per quella abitatrice di boschi e di lande. E a distanza di un numero imprecisato di anni, la mia morte, che avrei prevista egualmente, anche senza di lei. La prospera Gallia, l'opulenta Spagna, mi trattennero meno a lungo della Britannia. Nella Gallia Narbonese ritrovai la Grecia, che ha sciamato fin là, le splendide scuole d'eloquenza, i bei portici sotto un limpido cielo. Sostai a Nîmes per ordinare la fondazione di una basilica dedicata a Plotina e destinata a divenire un giorno il suo tempio. L'imperatrice era legata a quella città da ricordi di famiglia che me ne rendevano più caro il paesaggio asciutto e dorato. Ma la rivolta in Mauretania ancora divampava. Abbreviai la traversata della Spagna, trascurando persino tra Cordova e il mare di fermarmi un istante a Italica, la città della mia infanzia e dei miei avi. A Gades mi imbarcai per l'Africa. I vigorosi guerrieri tatuati delle montagne di Atlante vessavano ancora le città costiere dell'Africa. Vissi là per brevissimi giorni l'equivalente numida dei disordini sarmati. Rividi le tribù soggiogate ad una, l'altera sottomissione dei capi prosternati nel deserto, al centro d'un viluppo di donne, di masserizie, di bestie inginocchiate, e la sabbia rimpiazzava la neve. Mi sarebbe stato caro una volta tanto trascorrere interamente a Roma la primavera, ritrovare la villa incominciata, le carezze capricciose di Lucio, l'amicizia di Plotina. Ma questo mio soggiorno in città fu presto interrotto da allarmanti voci di guerra. Erano appena 3 anni da che s'era conclusa la guerra con i parti, e già sull'Eufrate erano sorti gravi incidenti. Partii immediatamente per l'Oriente. Gianni Musi ha letto Memorie di Adriano di Margheriti Yourcenar. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.